Per ora no, poi cambierà. Sarà. Allora sì, si può iniziare. Sì. Le luci, vuoi che ti sostengo un po'? Proviamo un po' a spingere le luci. Non sai qual è? Allora, buonasera a tutti. Questa sera è l'ultima serata prima della pausa natalizia, diciamo, del periodo natalizio. Riprendiamo a gennaio. Questo è il programma a partire da... Come fai a liberarmi? Mi sono levata questo impegno, dice la guarda. È il programma da gennaio a maggio praticamente. Poi vediamo se facciamo una coda anche a giugno. Pensiamo di... Noi continuiamo... È il programma dal 16 gennaio, quando riniziamo, fino alla fine di maggio. Poi ci siamo lasciati il mese di giugno libero, diciamo così, eventualmente per vedere che artisti porta al Summer Festival. Ci sono artisti interessanti, sicuramente ci saranno. Dedicheremo sicuramente. Ma insomma, sì. Abbiamo deciso di lasciare il mese di giugno per fare eventuali serate su uno, due, tre artisti, vediamo quelli che ci possono essere più nelle nostre corde sul Summer Fest. Quindi questi gli incontri sono 10, quindi ne abbiamo messi due in più rispetto al programma appena concluso. Si inizia con Phil Oakes, questo cantautore americano degli anni 60, abbastanza poco conosciuto ma molto interessante, e verrà a presentare il libro che ha scritto questa Francesca Ferrari, che ha appena pubblicato questo primo libro su Phil Oakes, quindi verrà a presentarlo qua da noi. E poi dopo continuiamo con il programma che vedete qua: Bowie, Gabby, Nick Drake, il punk, la New Wave, il Muse, Tom Waits, Nick Cave e la Soul Music. Niente, questo insomma è quanto faremo a partire da gennaio. Stasera abbiamo le leggende metropolitane, le storie più incredibili ai confini della realtà. Inquietanti. Vai. E via. Stasera ci siamo. Esploriamo. Ma gli unici ci sono. La sigla, cioè, si fa senza. Ah, già, c'è la sigla. La mettiamo in fondo. Non ce l'abbiamo, siamo senza. Siamo a chiusura. Poi. Ce l'hanno rubata. C'è da profondo rosso. E non ci abbiamo neanche per no, come sapevo quando tu non c'eri. Ah, ecco, ma è nell'aria. Sa captare i campi. Sì, in effetti sono rimaste le vibrazioni. Ecco, le vibrazioni. Fate conto che c'è il profondo rosso. Chi ha le antenne per captare? Capta. No, perché stasera è di questa serie qui, no? Stasera assolutamente di questa serie qui. E intanto ci abbiamo i nostri numi tutelari che ci guideranno in questo viaggio alla scoperta della verità. Perché noi non ci accontentiamo di sapere le leggende, noi vogliamo la verità e volta a volta scopriremo quelle che sono le varie cose che sono state dette. A volte sono false, a volte noi abbiamo trovato la verità guardando fra le righe, non sempre, ma insomma possiamo partire con la prima cosa. Il primo capitolo che ci abbiamo andiamo ad affrontare sono i morti vivi, cioè quegli artisti che ufficialmente sono morti. C'hai anche la foto, dovresti averci il capitolo 2. Abbiamo fatto un lavoro veramente, cioè questo è un viaggio serio, anche se non sembra. E i morti vivi sono quelle persone che ci hanno lasciato ufficialmente, ma non così è quello che è successo. Il primo che incontriamo è forse il più sconosciuto o comunque il meno noto tra le persone che in genere vengono additate come morti, che sono invece vivi e vegeti a godersi le vacanze da qualche altra parte, ed è Tupac. E il 7 settembre del 96 Tupac usciva da un incontro di box a Las Vegas. Era stato con amici a questo incontro di box, veniva fuori da un periodo molto difficile in cui avevano attentato nel suo studio varie volte alla sua vita, era sotto protezione della polizia, nonostante questo quel giorno non aveva il giubbetto antiproiettile. Passa una macchina a tutta velocità e spara una sventagliata di colpi di pistola. Lo attingono 5 proiettili che gli perforano un polmone. Tupac viene soccorso, viene portato in ospedale dove vivrà ancora per 6 giorni e in condizioni disperate ovviamente. Dopo 6 giorni, il 13 settembre, all'ospedale dell'Università del Nevada, Tupac è morto. E qui finisce la cronaca. Però delle cose non tornano. Come sempre in questi casi. Torna. C'è sempre qualcosa che non torna. Intanto questa degenza non è documentata da foto, non ci sono delle documentazioni di questa degenza. Vediamo un'altra foto di Tupac, ce n'abbiamo qualcuna, non mi sembra. Falle scorrere tanto, sì sì. E non sappiamo se veramente è stato ricoverato, se era ferito, se era così grave la ferita, non c'è stato modo. Dell'omicidio si viene fatta un'indagine che porta a indicare come possibile mandante Notorious B.I.G., che qualche anno dopo, peraltro, sarà anche lui ucciso, per una guerra tra le due correnti del rap e dell'hip hop, tra l'East e l'West Coast. Però prove non ce ne sono che sia lui il mandante, peraltro mandante insieme a Puff Daddy, che erano i nemici storici di queste, erano i due capi fazione. Sì, è probabile, però non si sa. Di sicuro sappiamo che, contrariamente a quelle che erano le sue abitudini, lui quella sera lì non aveva giubbetto antiproiettile. Perché ci verrebbe fatto di domandarci? Hanno cercato di ammazzarti varie volte, hanno provato in tutti i modi a spararti e te giri per Las Vegas, noto posto non proprio tranquillo, senza giubbetto antiproiettile. Quando muore viene cremato subito, nessuno vede il corpo, non si sa se è stato cremato. Alla fine, come Bin Laden, non lo so. Chi l'ha visto? Alla fine sì, ci hanno fatto vedere un'urna, ma non sappiamo se sia lui. Non solo, ma come non bastasse, all'indomani della cremazione hanno annullato tutte le cerimonie funebri. Ufficialmente hanno detto che le hanno annullate per non avere ulteriori sparatorie, ulteriori problemi. Ma sarà stato proprio così? Sì, perché no? Qualche anno dopo una chiave di lettura ce la offre Eminem, che in un freestyle, mentre sta rappando di fronte a un pubblico piuttosto nutrito di persone, lui dichiara: il rap è morto nel momento in cui Tupac è andato a Cuba. Ora, l'avrà fatto veramente di andare a Cuba o sarà morto? Intanto lui ci dice così. Il problema vero è che Tupac si era messo contro gli Illuminati. Oh, purtroppo dobbiamo dirlo. Cioè lui aveva fatto delle canzoni contro questa setta e si era schierato. Quindi è possibile che abbia dovuto inscenare la propria morte per scappare. Ciao. I fan di Tupac hanno più volte avvistato il loro idolo in vari punti del Sud America. Pare. Recentemente ci hanno fatto addirittura un video che ci hanno gentilmente messo in rete e noi ce lo guardiamo. Oh. Aspetta, ci vuole anche l'audio. È è vivo, ma non c'è più l'audio, non canta più. Sono gli illuminati, questi sono gli illuminati che ci stanno boicottando e non vogliono farci vedere Tupac. No, ecco qua è la scena in cui si vede Tupac. Eccolo qua. C'è la somiglianza, c'è. Questo è Tupac. Si accorgono di essere ripresi nella migliore tradizione e il video viene interrotto. Era Tupac, era uno che gli somigliava. Rimarremo con era questo. Tupac a Cuba prima che morisse. Prima che morisse. No, perché il video comunque è fatto ora, però rimarremo un po' con questo dubbio. Intanto ci possiamo però vedere una canzone di Tupac quando era sicuramente vivo. Lì era veramente vivo. E parla degli Illuminati? La canzone? No. È una canzone di Tupac. Ciao, sono Bob. In this prison of seclusion, happiness living on the streets is a delusion. Even a smooth criminal one day must get caught. Shot up a shot down with the bullet that he bought. 9mm kicking, thinking about what this thing do to me. Cause they never told Pete in the black community. All we know is violence, booty job and silence. Walk the city streets like a rat pack of tyrants. Too many brothers, daily headed for a big pen. Niggas coming out worse off than when they went in. Over the years I've done a lot of growing up. Get drunk growing up, cuffed up. Then I said I had enough. There must be another route, way out to money and fame. I changed my name, played a different game. Tired of being trapped in this business cycle. And one more cop will answer me, I just might go psycho. And when I get him, I hit him with a bum rush. Only a lunatic would like to see a score crush. Yo, if you're smart, you really let me go cheap. But keep me cooped up in this ghetto and catch the fools. See, they got me trapped. I'm on a kick, keep the black man down. They got me trapped. Asking me, searching me, then asking my identity. Hands up, throw me up against the wall. Didn't do a thing at all. Telling you one day these suckers gotta fall. Cuffed up, throw me on the concrete. Coppers tried to kill me, but they didn't know this was the wrong street. Bang, bang, count another gallery. But it's a cop who shot for his brutality. Who do you blame? It's a shame because the man slain. He got caught in the chains of his own gang. How can I feel guilty after all the things they did to me? Sweated me, hunted me, trapped in my own community. One day I'm gonna bust, blow up on this society. Why did you lie to me? I couldn't find a trace of equality. Work me like a slave while they laid back. Homie, don't play that. It's time I let them suffer the payback. I'm trying to avoid physical contact. I can't hold back. It's time to attack, Jack. They got me trapped. Getaway. All I need is a G and somewhere safe to stay. Can't use the phone cause I'm sure some was tapping it. Did no fool, ain't scared to use my dad again. I look back in hindsight, the fight was irrelevant, but now the devil's friend. Too late to be telling him. Quello che è sicuro è che se sia stata una guerra tra bande, sia stato quel che sia, a noi ci hanno tolto un bel artista, questo a prescindere. Però così. Il secondo che incontriamo in questo nostro viaggio di morti che sono vivi ma che ci dicono che sono morti è un classico ed è Jim Morrison. Jim Morrison, che non poteva mancare in questo nostro incontro, nel marzo del 71 si è trasferito a Parigi perché ha deciso che per lui era abbastanza il mondo della musica, non era quello che voleva fare. Voleva scrivere poesie e vivere di poesie e si è trasferito a Parigi. Probabilmente in quel... è bello. È bello, vero? No, stavo dicendo, vai. Cioè, voglio pure qualche foto perché ne uscite qualcuno veramente. Ma quando va a Parigi però è barbone, Quando va a Parigi è barbone, ma a noi ci piace. Grassato. Sì, sì, lo so. Però era bello comunque. Era giovane anche parecchio. Voglio vedere come era bello nuovo. Poteva essere un giubbotto di proiettili. Poteva essere un giubbotto di proiettili. Lui aveva intenzione di smettere di bere e di drogarsi con questo trasferimento a Parigi. Non andò proprio così. E il 3 luglio del 71 è morto in circostanze che poi non sono mai state chiarite completamente. Ultimamente è venuto fuori che sarebbe morto in un locale invece che nella stanza dell'albergo dove viveva e che la dose letale gli sarebbe stata venduta dal fidanzato di Marianne Faithfull. Sì, forse è vero, forse no. Di sicuro sappiamo. È grande, vedo già le gare. Scatta l'applauso. Questa è dopo, questa è dopo. Però diciamo che quello che sappiamo sicuramente è che è stato trovato morto. Dillo che Marianne Faithfull ha detto a René che è vivo. Dillo. No. Ah, non è ora? No. Scusa, non vuole anticipare. Ma quello l'ha detto a questo incontro quando ha partecipato, ma non si faceva vedere, stava là dietro. Sì. Perché è venuta. Certo, c'era sul giornale. Allora, il problema della morte di Jim Morrison è che in definitiva non è stata fatta un'autopsia, non è stata data una causa del decesso, è stato detto arresto circolatorio, cardiocircolatorio, cioè tutti moriamo per arresto cardiocircolatorio quel giorno che sarà, perché il cuore smette di battere, non è una causa di morte. E immediatamente fu fatto un funerale in fretta e furia. La motivazione anche in questo caso era per non avere l'assalto dei fan che sarebbero arrivati in massa, però di fatto anche i suoi, diciamo, colleghi dei Doors non si sono mossi per questo funerale e la cosa ha cominciato subito a dare un po' di a creare un po' di leggenda intorno a questa cosa. Sono nate subito due teorie. La prima vuole che Jim Morrison quella sera del 3 luglio sia scappato in Marocco, dove ha cominciato a fare il poeta sotto falso nome e è tornato recentemente a Parigi e negli anni 80 è stato peraltro intervistato da un giornalista che ci ha scritto un libro, ci ha fatto uno stonfo di soldi, però il libro francamente non dice granché. Vivrebbe tuttora a Parigi e sarebbe sotto falso nome. Purtroppo non c'è dato di sapere questo nome. L'altra versione è recentissima ed è poco prima che morisse Phil Manzarek e che ha detto: io non credo che Jim sia morto, perché quando prima di andare a Parigi ci ha fatto vedere un opuscolo delle Seychelles e ci ha detto come sarebbe bello stare qua. Phil, questo potrebbe bastare per giustificare il fatto che tutto sommato lui non è morto ma è andato alle Seychelles e lì vivrebbe facendo il poeta sempre. In tutti i casi noi ce lo augureremo perché sarebbe una bella vita. La realtà è, probabilmente è che è morto, ma la realtà è che in realtà lui ha cercato di sfuggire alla maledizione dei 27, di cui parleremo un pochino dopo, e ha cercato di sfuggire facendosi aiutare dalla CIA. Un'agenzia deviata della CIA aveva questa missione di uccidere i musicisti della controcultura quando arrivavano a 27 anni. Ma Robert Johnson non poteva arrivare. No, Robert Johnson no, infatti lui fa parte del Club 27, che è un'altra cosa. Senza il J, perché hanno ucciso solo 4 musicisti, questi dell'agenzia deviata. Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, ma Jim Morrison non l'hanno ucciso. In realtà Jim Morrison, grazie al padre che era ammiraglio di marina e quindi aveva le entrature giuste, avrebbe contattato Jack Ryan, che è un ex agente dell'agenzia J-27. Come ha raccontato al suo compagno di cella nei 2 giorni di detenzione che ci ha fatto insieme, per poi sparire misteriosamente e far perdere le proprie tracce, perché è questo ovviamente. Jack Ryan avrebbe aiutato Jim Morrison a crearsi una nuova identità. Questa nuova identità, purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo, è Barry Manilow. È il grande Barry Manilow, che è un illuminante. È Barry Manilow. Dio santo. Questo è Jim Morrison oggi. Ma che? È vero. Allora, perché siamo convinti che sia questa la verità? I zeroi sono un po' alti, eh? Ma Jim Morrison scompare nel 71. Di Barry Manilow nel 71 non avevamo notizia. Non sapevamo nemmeno che fosse. Potremmo dire per fortuna, ma non lo diciamo, perché è stata la seconda vita di Jim. E noi a Re Lucertola li vogliamo bene. Diventa un ramarro. In questi anni che Barry Manilow compare sulla scena nel 73. Dal 71 al 73, secondo questa teoria, che noi veramente abbracciamo completamente. Dal 71 al 73, Jim Morrison si sarebbe sottoposto a una serie di operazioni chirurgiche che lo hanno trasformato in Barry Manilow. E che culo che ha avuto! E che culo che ha avuto! Ora, resta da capire il colore degli occhi, ma ci sono le lenti a contatto colorate e quindi siamo a posto. Però ecco, diciamo che cos'è che ci supporta in questa teoria abbastanza difficile e piuttosto spericolata? È il fatto che l'unica che poteva confutare tutto questo era Pamela, la fidanzata di Jim Morrison. Ma Pamela purtroppo muore proprio nel 73. Una dose, diciamo, tagliata male di eroina ce la fa morire. Una morte annunciata, perché lei più volte ha detto alla sua migliore amica: io ogni giorno parlo con Jim. E la migliore amica ha detto: oddio, questa è matta. E invece no, lei veramente parlava con Jim, che era ricoverato a fare le operazioni di trasformazione in meno. Ma poi la CIA purtroppo ce l'ha ammazzata. A questo punto proprio dove anche gli illuminati mi devi nomi. Aspetta, ci arriviamo, ma sta calmo. A questo punto Barry fa un estremo tributo alla Pamela e scrive una canzone che io non vi faccio sentire perché vi voglio bene, perché vi voglio veramente bene, che si chiama Mandy. Allora, Mandy, voi vi chiederete perché Mandy è dedicata a Pamela se si chiama Mandy? Effettivamente potrebbe essere una domanda legittima, ma io ho la risposta, perché nel linguaggio giovanile degli anni 70 usava scrivere M and Y per dire me and you. Quindi Mandy vuol dire me, Jim, and you, Pamela. Ecco perché Mandy era una cosa fra loro. Fra loro due. Nessuno. Non era Mandy il nome Mandy come Federica, Carlo. No, era me era Andy. Un messaggio strano. Del resto, ci sono anche delle prove inconfutabili. Sono tutti e due nati nel 43 dall'anagrafe. Sono tutti e due alti 1,82 m. Ora non mi venite a dire che è l'altezza media della popolazione, perché questa è una, è un motivo veramente. Pesano tutti e due 78 kg. Allora, soprattutto hanno una voce compatibile e un difetto di pronuncia molto simile. E qui. Vabbè, ma il naso se lo poteva far far meglio. Ma diciamo che poteva farsi far meglio tante cose, anche gli zigomi. Direi, soprattutto si poteva far far meglio la voce. Dice che ascoltando Mandy all'incontrario si sentono dei pezzi satani. Sicuramente, ma non solo. Ma qual è Mandy? Lascia perdere. Non no, si sta ascoltando Mandy da allora. Senti il live fire. Live fire, assolutamente. Da allora è Mandy viene cantata tutte le sere nel suo show, perché lui fa questo show da entertainment a Las Vegas, e guarda caso, ma niente è un caso, si esibisce all'Hotel Paris, Parigi, la città che lui aveva scelto per scappare. E quindi torna tutto, si chiude il cerchio. Voi potrete pensare che non sia così, ma il cerchio si è chiuso. E quindi abbiamo Jimmy però allora noi siamo contenti se lui è sopravvissuto, siamo felici, però a noi ci piace ricordarcelo in questo modo qua. No, a noi ci piace ricordare. Mandy. No, no, a noi ci piace ricordarcelo così, comunque sia. No, Frank Sinatra deborgata. E questa canzone non a caso si chiama People Are Strange. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, quanto poteva essere strana la gente, ma comunque facciamo, ci ha guadagnato, diciamo, io penso sia musicalmente, artisticamente, certo, un abisso, veramente. Dunque, adesso facciamo una parentesi su questo Club 27, perché giustamente bisogna capire che cos'è. Allora, come si diceva, questo Club 27 è quell'insieme di musicisti che per cause diverse tra loro, non riconducibili a un filo comune, sono morti a 27 anni. Apparentemente, c'è questo filo che è l'età 27. Per questo si è parlato di una maledizione. Qui ci abbiamo tutti quelli che sono morti a 27, col J, quelli che del Club J 27, senza quelli senza il 27, che appunto parte da lui nel 38, mi sembra. Tutti questi musicisti sono morti a 27 anni. Il J27 include anche Amy Winehouse, perché si chiama di secondo nome Jane. Invece non include Kurt Cobain, perché lui non ha la Jane. Forse c'aveva un soprannome, però ci avrà avuto un soprannome, però Kurt Cobain lo mettiamo nel Club 27. O Jane. Nick Drake mi sa che è 26 anni. Lui sì. Lui è 26. Lui è 26. No, sono altre età. No. Col 27 sono solo loro. E sì, sono, vabbè, no, sono tanti, effettivamente, non sono pochi. Però ecco, diciamo che il Club 27 c'è chi ha parlato di una macchinazione della CIA. C'è chi ha parlato di una setta che si accanisce contro i musicisti che sono all'apice del successo, cominciando giovanissimi, arrivano all'apice a 27 anni e questi si accaniscono contro i musicisti e li uccidono. Ora, il fatto che i nostri musicisti siano morti per causa chi di incidente stradale, chi di malore, chi di overdose, chi per suicidio, effettivamente ci disorienta un pochino, perché è difficile ricondurre tutto alla stessa cosa. Resta questa grandissima coincidenza di una maledizione, forse, ma forse molto più banalmente è che quando si arriva cazzo già più o meno è venerdì. Quando si arriva a 27 anni purtroppo finisce la carriera. Però adesso ci possiamo anche concedere un altro eccellente morto, vivo, morto. Sai che è morto, è vivo. E ovviamente... No, sei partito. No. Il morto vivo per eccellenza, Elvis. Dovete dirmi che Elvis è Kurt Cobain? No, Elvis non è Kurt Cobain. Elvis. Ma no, mettiamo le foto prima. No, mettiamo le foto, vai prima. Ma ormai è partito. Ma ce lo vediamo dopo. Guardiamo, allora guardiamo. Ma la chitarra, guarda roba. Ma che bestia. Sai che tutto l'arm? Ma io sentiamo. Well, this is probably the greatest honor that I've ever had in my life. There's not much I can say except that it makes you feel good. We want to thank you from the bottom of our heart. And now, no micro. No, I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least on the telephone. I'm the crew of a heart is true. Baby, if I made you mad, there's something I might have said. But you love forgetting the past, the future looks bright ahead. I'm the crew of a heart is true. Non so se giovanissimo, bello, era qualunque cosa. Poi ha conosciuto una fase di declino. Ci abbiamo qualche foto del periodo, dell'ultimo periodo, e non è propriamente un bel periodo per lui. Abuso di droghe, di farmaci, un po' di tutto. Ha avuto un periodo difficile nella vita e il 16 agosto del 77 è morto ufficialmente per malore. Qui è sempre quando era discreto, qua la tre. Era discreto. Qua invece cominciamo a vedere il declino. Il basettone, amica. Era tanti punti. Molto anni 70, molto. Però qui purtroppo cominciamo a vedere quello che sarà il destino di Elvis. Depressione, una crisi depressiva molto alta lo porta ad abusare di farmaci, e questo lo porta alla morte. Il problema è che anche in questo caso la morte non è certa. Ah no? No. Noi lo vediamo così nella bara, ma ci sono 10 prove. 10 prove. 10 prove. Per cui gli studiosi, quelli seri, hanno raccolto e per cui noi andiamo a capire queste 10 prove. Allora, intanto Elvis è stato collaboratore del governo americano nella lotta contro la droga, contro questa cultura che si stava diffondendo, e ha collaborato con Nixon, dal quale riceve anche il distintivo. Ci dovremmo avere la foto, mi sembra, più su, forse. No, non ce l'abbiamo la foto. Quella era importante, però. Mi è saltata la foto. Bravo. C'è una foto in cui Nixon consegna il distintivo della DEA, il Drug Enforcement Administration, al re del rock. E questo fa sì che sia chiara la connessione con il governo. Poi abbiamo un'altra prova, questa, la tomba. E il padre di Elvis sbaglia il nome del figlio sulla lapide. Questo, secondo gli studiosi, è il chiaro segno che vuol dire che non è lui. Ci ha messo 2 A. Lui si chiamava Elvis Aaron Presley, non Elvis Aaron Presley. E non è stato il marmista o chi per lui a fare un errore grossolano, ma il padre che ha voluto in questo modo dirci: non c'è mio figlio in questa tomba. E questa, per amica mia, te la sottoscrivo, però. Questo è pesante, questo ci credo. Questo è un bel lasso, Questo l'ho calato, è lasso. Ora te ne dico un'altra. Mettimi ora la. Sì, ti faccio vedere anche adesso. Allora, al di là del fatto che si vede che è un manichino. Sì, è chiaro. Non si muove. Si vede che è un. No, il problema che è stato sollevato è che da misurazioni fatte la bara era troppo pesante. Pesava la bellezza di 410 kg. Ora va bene che era grasso, ma 410 kg sono troppi. La spiegazione che ci hanno dato i nostri studiosi americani è che, siccome è morto agosto, il marichino che è stato messo nella bara rischiava di sciogliersi, allora è stato necessario mettere dentro la bara un refrigeratore, e questo ha fatto sì che il peso aumentasse. Sarebbe stato decisamente disdicevole se il marichino si scioglieva. E poi oltretutto hanno fatto un manichino di quando era giovane, non dell'Elvis. Peraltro, sì, si vede anche forse nell'altra foto con la bara aperta, perché le foto sono rigorosamente abbastanza da lontano, però è un po', sì, un po' giovane. Il manager di Elvis, il giorno del funerale, ha detto: Elvis non è morto, è morto solo il suo corpo. Teniamo alto lo spirito, manteniamo Elvis vivo. Ho parlato con lui questa mattina e mi ha detto: andiamo avanti. Esatto. Ovviamente lui sapeva che Elvis era vivo. Oh. Cioè, è chiaro, lui lo sapeva. Ci sono dei problemi al solito sul momento della morte, ma questo sinceramente io non mi sento di sposarlo, perché quando muore Elvis, cioè magari qualcuno sbaglia a scrivere qualcosa, ci sta. Ci abbiamo un mistero. Il mistero del libro sulla Sacra Sindone sul comodino di Elvis. Perché direte è un mistero? Uno non può leggersi un libro sulla Sacra Sindone? Sì, però il libro sulla Sacra Sindone uscirà in libreria solo un anno dopo. E lui lo aveva già lì pubblicato. Però il libro già pubblicato, rilegato col, con la Sindone poi. Non tu, la Sindone. Poi ci sono delle coincidenze che fanno pensare. Le 10 prove? Le 10 prove. Ci siamo quasi. Siamo all'ottava. Ci sono delle, è un fatto di coincidenze, l'ottava prova. Però singolare. Prima di morire Elvis, proprio 3-4 giorni prima, ha cambiato il testamento. Ha escluso alcuni parenti dal testamento via. E ha fatto, diciamo, in modo di avere una buona disponibilità economica, cash. Non solo, ma ha fatto un giro di telefonate e ha salutato gli amici. Cioè, tutto questo è banale. Perché non farlo? Però, certo, se stai per partire, ti metti qualche soldino da parte, per esempio. Poi c'è stata un'altra cosa, ed è, siamo alla nona prova. Tale Mr. Burroughs, il giorno del funerale di Elvis, si è presentato all'aeroporto di Memphis, che non è un grossissimo aeroporto, e ha chiesto un biglietto per Buenos Aires. Ora, tutto questo potrebbe anche essere una mera coincidenza, però Burroughs era il nome che Elvis usava quando scendeva negli alberghi e non voleva farsi riconoscere. Coincidenza, c'era veramente un signor Burroughs, oppure anche questo è un bel lasso però Nel 2002 poi è uscito un disco, King Tuned, e sono canzoni degli anni 2000 cantate alla maniera di Elvis. Si dice che la voce sia esattamente quella di Elvis, però questa per me è un po' zoom. Ci basta questo per dire che Elvis è vivo? No. Noi andiamo oltre. Perché andiamo oltre. E andiamo da Matt Frost. Matt Frost è un giornalista che si è recato a La Habana e voleva intervistare Fidel Castro. Che dove volesse intervistare Tupac? Invece voleva intervistare Fidel Castro. No, perché è andato nell'ospedale della Habana e si è presentato come infermiere, ha rubato, proprio fatto le cose da film, ha rubato il vestito da infermiere, si è introdotto e ha visto una porta piantonata da due militari. Lui ha pensato, qui dentro c'è Castro, io vado e lo intervisto. Apre la porta, c'è Elvis! C'è veramente un signore americano piuttosto anziano che quando vede entrare questo infermiere dalle fattezze fisiche non sudamericane fa: va bene, mi hai scoperto, sono Elvis. Ah, gli dici subito così. È tutto vero. E questo ha fatto uno scoop. E questo ci ha fatto il libro. Ci ha fatto il libro. E questo ci ha fatto il libro e ci ha fatto un sacco di soldi. Un'altra teoria, infine, vuole che Elvis sia sempre a Cuba, perché abbiamo scoperto comunque che Cuba è un gran bel posto dove si vive bene anche da morti, e questo teniamolo presente. E scendimi giù e fai vedere questa foto. Eccolo qua. Questo è Elvis oggi. È il signor John. Quello che era all'ospedale. quello che era all'ospedale, ha detto sono io. Sì, cioè, questo è lui. Sembra più Hemingway, però è lui. Se vai più giù c'è ancora un'altra fotografia. Sì, eccolo qua, e abbiamo John Kottner. Eccolo. John Kottner ecco è lui. No. Sì, è identico. È lui. Anche l'orecchino mio, dai, certo. Allora, John Kottner è la persona che è indicata da più fonti per essere Elvis oggi. Tanti capelli anche. E ne aveva tanti. Ne aveva tanti, potrebbe essere quello per i capelli. Gli zigomi effettivamente ci sono. Perché somiglia sostanzialmente. Ah, perché somiglia tanto. Sì, cioè, alla fine è stato... Ma il giornalista ha riconosciuto in lui... Quello no, questo, no, questo non è quello che era all'ospedale. Questo è John Kottner che vive a Cuba anche lui, però non sta in ospedale, sta benissimo, ha 77-78 anni e dalle sovrapposizioni fotografiche effettivamente pare che sia lui. Sì, sia lui, è lui, è ovvio. Cioè, secondo me somiglia. Deve fare il movimento di bacino. Ma sai, magari se c'è un po' di l'anca. L'accenno. Ma l'anca. Ma sai, l'anca, una certa età. L'accenno, gioco. E questo è John Kottner. Ora, siccome il video ce lo siamo già visti, passiamo a un capitolo completamente nuovo, che sono i vivi morti. I vivi morti. E abbiamo anche i vivi morti. Veramente ce ne abbiamo pochi, per fortuna nostra di vivi morti ce ne abbiamo pochi. E ci abbiamo lui, Paul McCartney. Il grande Paul. Allora io ho fatto un po' di ricerche perché effettivamente questa storia che Paul sia un sosia è stata detta e ridetta, però... È la verità, un sosia. Sì, cioè sì, come si fa a dire di no? Come si fa a dire di no? Qui le prove ci sono. Qui le prove sono schiaccianti, diciamo. Ma assolutamente. E noi le andiamo a vedere, perché finché non le tocchiamo con mano certe cose, non possiamo rendercene conto. Allora, intanto, qual è la storia? La storia è che nel 1966, precisamente il 9 novembre, due giorni fa praticamente, Paul ha avuto un litigio con gli altri Beatles. Sono le 3 circa di notte, prende la macchina, la sua Aston Martin, e va via. Sulla strada trova un autostoppista, tale Rita. Lovely Rita. Lovely Rita, vai. Trova Rita, l'autostoppista, la carica. Rita non si rende conto di per niente, perché sono le 3 di notte. Però gli racconta tutta la sua storia e questa ragazza è rimasta incinta e i genitori hanno cominciato a dire no, non lo devi tenere, questa è una classica dramma familiare. Lei è scappata di casa alle 3 di notte e per fortuna ha trovato questo gentile signore ragazzo in questa fase. E Paul praticamente che cosa ha fatto? L'ha consolata, gli ha detto poverina, no? Così. La ragazza a quel punto si è resa conto di chi stava guidando la macchina e che era Paul McCartney e ha cominciato a urlare, a strepitare, le scene classiche dei Paul, fatti. Se Paul. Se te. Esatto. Paul ha perso il controllo della macchina e per evitare di prendere un'altra macchina che veniva nel senso inverso è finito contro un albero. Purtroppo in questo tremendo incidente fatto a tutta velocità con l'Aston Martin hanno perso la vita sul colpo sia Paul che Rita. Così si racconta perlomeno. E gli altri 3 Beatles erano sotto shock. Era sotto shock Brian Epstein e decisero di non dire niente al mondo. Non dirlo perché avrebbe creato panico, avrebbe creato e soprattutto avrebbe distrutto la carriera dei Beatles, diciamoci le cose come stanno. Nasce la caccia al sosia. Sono stati trovati un paio di sosia. Qui ci sono delle discordanze. Abbiamo che è stato scelto William Stuart Campbell, un attore di origini scozzesi, che somigliava a Paul. Oppure William Shepard, un ex poliziotto canadese vincitore del concorso Sosia per Paul. È facile dire. Sì, ti vinci facile, cioè, effettivamente. Noi pensiamo che sia il canadese. Perché tutto noi abbiamo puntato tutto sul canadese. Qui abbiamo Paul e Fall. Fall. Allora, questo è Paul. E questo è Fall, fake Paul. Allora, Fall è più alto di Paul di 5 cm. E 5 cm non li prendi per caso. No. O ce l'hai o non ce l'hai. La forma del viso di Paul è più di Fall è più allungata rispetto a quella di Paul. C'è una diversa distanza degli occhi tra Paul e Fall. Una bianca e nero e una colore. Sì, però. È evidente, sono due diversi. I due hanno una diversa dentatura, anche se qui non si vede. Eh no, aveva fatto la foto il tuo come cavalli. È diversa la forma del mento. Sì, sì, sì, sì. E anche la voce è abbastanza diversa. Non è proprio uguale. Già, anche. Le frequenze. Purtroppo è così. Questo purtroppo è così. E qua abbiamo un'altra fotografia dove si vede ora. Non ritagliare. Full e Paul. Cioè, esiste una spiegazione razionale a tutto questo. Effettivamente c'è una differenza somatica tra il Paul ante 65 e post 65. Paul McCartney ha veramente avuto un incidente stradale, l'ho avuto con il motorino, non con la macchina, e si è rotto gli incisivi e alcuni denti dietro. Questo ha fatto sì che si sia rifatto completamente la bocca, cioè l'ha risistemata, e questo ha portato a dei cambiamenti somatici, ma questa è una parentesi che non dovremmo neanche considerare. Questa è falsa, poi. questa è una leggenda, questa. Se tu avessi una Aston Martin adesso giro il motorino. Bravo, bravo, bravo, sei un grande, così, con Aston Martin, perché dovresti prendere il Ciaino? Che a quell'epoca... Al limite lo scozzese se hai fatto denti, non il canadese. Canadese no. Ma andiamo alla copertina di Sgt. Pepper. Questa copertina c'è tutto. Allora, da quel momento, diciamo, per un periodo i Beatles non fanno più concerti. Questo perché Fall doveva imparare a impersonare Paul. Le canzoni. A impersonare. È morto nel 66. Però i Beatles cominciano a sparpagliare degli indizi di questa cosa un po' ovunque. Diventa un po' un gioco per loro, quello di far capire ai fans che Paul non c'è più. Tra l'altro l'avevo visto anche qua. Sì, Paul. C'è più tipo in questa copertina che però va bene, hai ragione, vai, sì, hai ragione. In questa copertina che è mezza coperta, l'unico che non ha il cappello, fidatevi, qui non si vede, l'unico che non ha il cappello è Paul. E questo significa che Paul è morto. No, perché è prima del 66, però loro lo sapevano che sarebbe successo. È del 64. Però tra le prove c'è anche questa e altre copertine, però noi prendiamo solo le prove serie, e qui sono le prove serie. Seconda foto, cominciamo ad analizzare. Questa è la bambola di Shirley Temple. La bambola di Shirley Temple ha in mano, indicata dalla freccia verde fatta dalla sottoscritta, la Aston Martin bianca. No. L'interno della Aston Martin bianca è di colore rosso, ma non era rossa l'Aston Martin. È il sangue versato il giorno dell'incidente. Eccolo qua. Seconda foto. Sempre sulla bambola c'è scritto c'è scritto Welcome, no, non ci si legge qui, scusate, Welcome Rolling Stone. Vi chiederete perché? Perché i Rolling Stone sono più bravi? Perché c'è una rivalità fra i due gruppi? No, perché erano molto amici e i Rolling Stone sapevano quello che era successo. E quindi Welcome dentro questo segreto, benvenuti nello stretto giro di persone che sanno. Ma anche noi sappiamo. Terza fase. Welcome Stone. Nella prossima fase. Qua abbiamo questa composizione di fiori. È un basso girato per un mancino. Ma non è solamente questo. È un basso dove ci sono solamente tre corde. Ne manca una. Purtroppo il quarto membro dei Beatles è morto. Non c'è più. Foto successiva. Beatles, e qua c'è una O. Questo è Beatles, lo vediamo tutti? No, non è Beatles. No, è Beatleso. Ci dice dove è sepolto Paul. Beatlesoto. È sepolto all'Esoto. Cioè, voi pensate che sia tutto... Ma manca la tona qualche parte. Perché, grazie, perché grazie, ovviamente... Grazie, sennò sapeva anche lui. Dai. È all'Esoto. No, questa è bella, però. Questa, cioè, ci dice dove è sepolto Paul. Un po' forzata, però. Tipo Mandy. E nell'immagine successiva, eccolo qua. Paul ha in mano un oboe. Scusami, ha in mano uno strumento di legno, mentre gli altri Beatles hanno tutti strumenti di ottone. Perché lo strumento di legno? Perché era quello che veniva tradizionalmente suonato nei funerali. E quindi è la chiara dimostrazione che è morto. Foto successiva, ci abbiamo invece la posizione di Paul, freccia gialla e cerchietto nero. La posizione di Paul. Gli altri Beatles sono in posizione di tre quarti, quindi nella foto appaiono tridimensionali, mentre Paul è di faccia, bidimensionale, perché ormai è solamente un'immagine, non è più una persona. È solo un'immagine. Non solo, ma potete notare dal cerchietto nero che si appoggia a Ringo. Perché non allargare un po', perché questi particolari ci sfuggono un po'. Sono fondamentali. Tutti Sherlock Holmes, bravo. Vedete? Bravo. Così adesso ci vedo troppo la manina. Addio. No, adesso. Ecco, quella lì. Questa? No, sinistra. Quella. Eccolo, fondamentale. Oh, vedete, si appoggia al Ringo. E poi c'ha le mani proprio così, come c'ha... i morti dentro la barca. Esatto. Ma poi, perché si appoggia al Ringo? Perché essendo morto, non può più stare in piedi. Allora si deve appoggiare. Si vede bene, e si vede, ecco, così nel grande, si può vedere bene il fatto che è proprio un cartonato. Cioè, non ha più... È una sagoma. Sì, non ha più consistenza. Lennon non è che foto successiva. Perché ha avuto un incidente? Questa, no, questa qua. Ecco qua. Qua abbiamo un altro particolare che ci piace. È questa mano. L'areola. Questa mano è. Quella mano lì non viene da nessuna parte, ma in molte culture la mano così, soprattutto quelle orientali, è il simbolo della morte. E quindi è stata messa lì per dirci che purtroppo... È un'unzione, diciamo. È una cosa così. Sì. Sotto? Ecco qua che abbiamo di nuovo i Beatles da ragazzi vestiti di nero. E questo sono vestiti di nero perché sono a lutto per la perdita del loro amico. Sono come quattro statue. Di cera, sì. Che ricorda quella di Elvis nella bara. Tutto torna. Tutto torna. Vai. Eccolo qua. Il distintivo che poi vediamo bene nella foto successiva. Lui c'ha questo distintivo. Io soprattutto apprezzo. No, ora ce lo dici. Ho detto il distintivo della dea. Il Nixon. Quasi. Elvis, che lui l'ha passata. Eccolo qua. Ricordatevi che stiamo parlando del coso, del poliziotto canadese. Dell'ex poliziotto canadese. Ecco la foto successiva. Sotto. OPD. Allora, questo distintivo, che potrebbe sembrare quello della polizia canadese, che ci fa pensare, in realtà è la sigla che significa dichiarato deceduto. Official Deceased. E qui, su questo album ci fermiamo. Passiamo al... C'è anche la canzone A Day in the Life che racconta la storia dell'incidente. Ci sono tantissime canzoni su Se si finiva domani l'altro, però bisogna un pochino anche stringere. Passiamo alla seconda copertina, abbiamo solo preso le copertine e le canzoni, no? Questa è la più famosa. E andiamo alla seconda, così si vedono già le cose che voglio. Allora, è scalzo, perché nella bara ci si sta senza le scarpe. Fuma con la destra mentre lui è mancino ed è vestito di scuro perché è in lutto. Anche Ringo non è che è vestito tanto più chiaro. No, però lui... Però le scarpe. No, le scarpe. Ringo è il becchino, no? Qui sarebbe... Esatto. Sì, sarebbe sì, lui sarebbe il maestro della cerimonia, sì. Il becchino, il morto e il civile. Sì. E se la foto successiva invece ci fa vedere un altro particolare, la targa della macchina che vediamo qua. Eccola qua. E foto sotto. Sì. Questa qui, Marco. Foto qua. È più vicinissima. Allora, nella targa c'è scritto LMW 28 IF. Come si traduce tutto ciò? Linda McCartney widowed. Linda McCartney è diventata vedova. 28 IF. Se fosse vivo Paul avrebbe 28 anni. Perché è del club 27 anche lui allora? No, lui è già morto. Lui. È il momento del disco. Era già morto. Già, questo è vero, sì. È vero, scusa. Andiamo alla copertina successiva. Let It Be. Questa è abbastanza banale. L'unico che ha lo sfondo colorato è Paul, è rosso. Il sangue è bello. Come non capisco. Sì, cioè questo è talmente banale, questa cosa qui. Ma poi, cioè veramente, cioè, perché mettere lo sfondo rosso? Voglio dire, te la cerchi. Sì. Sta guardando nel vuoto, nel vacuo. Andiamo alla copertina successiva. Sì, questo. Bravo. Però Paul su queste cose ci ha sempre un po' giocato, un po' scherzato. E infatti... Paul. Ha fatto un disco da solista, Paul is Alive, dove ha fatto esattamente la stessa foto con la stessa macchina dietro, una macchina meno dall'altra parte, ma glielo perdoniamo, e si chiama Paul is Alive. Noi possiamo anche pensare che forse quasi un'escusazione non petita. È andato anche dai Simpson a dire che è vivo. Vediamoci Paul vivo. Poi Simpson. No, non l'ho trovato, lo sai che non è mai scelto. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go. such an easy game to play. E poi non need a place to hide. Però hanno lavorato veramente. Ma se vai a vedere le canzoni per canzone, la frase è che non ci riesco a finire. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. A parte che apprezziamo il fondotinta, però ora vi sorprenderete. Ma questo video era di fondo o di polla? Di polla, no, no, questo è polla. Ho voluto un video di Paul per ricordarcelo così. Uno degli ultimi. Sì, peraltro uno degli ultimi. Ora vi voglio sorprendere veramente. Giacobbo e Adam Cadmon. Ah, ok. Che domande! Cioè, i nostri nomi tutelari. Cioè, no, no, no, Italia 1 la domenica sera, l'ho visto una volta, sono rimasta affascinata. No, non ne hai visto nulla. Però adesso vi sorprenderò, perché non vi aspetterete mai la persona che è morta e viene detto che è viva. Fai vedere la foto. No. Justin Bieber, il grande Justin. Cioè, lui voi... sarebbe vivo, lui sarebbe morto. Enorme, morto. Enorme Justin, morto. Tutti dovete fare. Cioè, Justin Bieber, teen idol di questi ultimi anni, è stato ucciso in un incidente stradale. No, perché gli illuminati hanno deciso che non potevano farne a meno. Però hanno deciso che il mondo aveva bisogno di Justin Bieber per essere sottomesso. Ognuno c'ha quel che si merita. E purtroppo ci hanno dato il sosia di Justin Bieber. Ah, pure. E quindi continua a esserci sulle scene un finto Justin Bieber che ci massacra con le sue canzoni che sentiamo veramente solo 30 secondi. No, spugniamo. Sì. Peraltro è canadese anche Justin Bieber. È tutto perché noi figlio di poliziotti e io qui veramente direi di vedere una puntata, come si chiama quel programma americano? Tipo Maurizio Costanzo, dai, per tipo David Letterman Show. Con lui ospite che lo maltratta, c'ha un tatuaggio fresco qui, sì. E Letterman glielo prende, e lui proprio risentitissimo, gli fa proprio male, è bellissimo, guarda, forse era morto per cui. Però ecco, 30 secondi per far sentire giusto che cosa gli illuminati ci vogliono propinare per governare il mondo, ma questo ci serve. È cambiato forte però, anche lui ha avuto... E in effetti, sì. È cambiato tanto. Il meglio, direi. Anche qui. È mancino, vedi? È come Pol. È mancino come perché, Pol. Perché i vivi che sono detti morti sono tutti mancini e non può essere un caso. Is the stars in the sky. Così non avete eccoci qua, bastare Justin Bieber. Non lo so, una 25ina più o meno. Piccolo. Però questo ci porta, ci catapulta direttamente nel mondo degli illuminati. Oh, lo levi però già la serata era stimata. Aspettavamo. Timberlake, siamo qui a morti, morti vivi. Allora, si arriva agli Illuminati. Chi sono gli Illuminati? Penso che lo sappiate tutti, no? Sono una setta che governa il mondo in maniera occulta e che praticamente usa qualsiasi sistema per governare il mondo, dall'economia, alla politica, tutto, anche la musica. E anche le trasmissioni di Giacobbo. Anche, e soprattutto Adam Cantor. Soprattutto. Allora, di Tupac abbiamo già parlato. Abbiamo detto che sono stati gli illuminati, cioè che lui si è finto morto per scampare agli illuminati che lo volevano uccidere. Perché aveva fatto una canzone, Kill Illuminates. L'ha attaccati proprio. È andato al cuore. È andato al cuore del problema. E purtroppo questo l'ha costretto ad andare a Cuba, anche lui. No. Però, vabbè, di Tupac sappiamo. Poi ci abbiamo, metti che era, avevo fatto il video? Sì, il video, no? Delle foto. Sì, sì. Allora, vi faccio un elenco, perché se no ci stiamo fino a domani. Ci abbiamo Jay-Z, che è illuminato. Allora, tutti sappiamo che è un adoratore del diavolo. Sappiamo che è massone e sappiamo ora che è anche illuminato. È la sua moglie. Cioè, questi sono tutti illuminati, questi. Alle dipendenze degli illuminati. O ex tali. Nelle sue diciamo. Sì, la foto era Madonna. Sì. Poi abbiamo Beyoncé che ha deciso di far parte, è stata chiamata a far parte degli illuminati per avere... per il suo gran successo. Ma chi non fa? Cioè, sono tutti. Ma non so. Madonna, cioè, Madonna tantissimo illuminata. Ma no, perché? Ma già dal nome. Già dal nome. Allora, lei sarebbe manovrata dagli illuminati, perché coi suoi messaggi riesce a condizionare in maniera perfetta il mondo. E le sue canzoni sono un ottimo veicolo per condizionare le giovani generazioni. Poi abbiamo Rihanna, che invece ha fatto un percorso inverso. Rihanna ha cominciato a far musica per entrare negli illuminati e avere successo. Non ha fatto successo perché era nel... sì, lei ha fatto il patto col diavolo. Kanye West, più o meno come Jay-Z, massone, illuminato, e le sue canzoni sono dei messaggi in codice chiari solo agli appartenenti della setta. Poi abbiamo, povero Eminem, è un ex illuminato. Allora, Eminem, che nella prima parte della sua carriera aveva spesso il simbolo degli illuminati, che ovviamente tutti sapete, ma è la piramide con l'occhio. Però... sul dollaro. Quella che è anche sul dollaro, sì, quella. Però dopo essere stato per molto tempo affiliato agli Illuminati, aver portato il messaggio degli Illuminati attraverso le sue canzoni, si è accorto che questo era negativo nei confronti del mondo e si è distaccato. Da lì sono cominciati i problemi per Eminem. È stata la fase discendente della sua carriera. E purtroppo così succede un po' a tutti. Esatto, purtroppo sì. Vorrei anche ricordare che la seconda A nel nome di Elvis sembra un triangolo. Sembrerebbe una piramide. Sembrerebbe, effettivamente. Un omaggio. Potrebbe non essere una cosa. È vero. Allora, c'è della verità. Sono delle evidenze. Noi le dobbiamo sottolineare. Poi un'altra ex. Il verbo può essere sparso. Assolutamente. Britney Spears, anche lei è un'ex illuminata. Poverina, anche lei è stata usata dagli illuminati per coercire le giovani generazioni e fare loro il lavaggio del cervello. Poi a un certo punto lei si è distaccata ed è stata caduta in disgrazia. È vero, si era tagliata il capello. Sì, si è rapata. È vero. No, ma ha avuto problemi di droga, ha avuto problemi. Tutto. È finita X-Factor. Cioè, peggio di così. Lei è il massimo, lei non si è ammazzata, lei è stata sacrificata dagli illuminati. Perché si era voluta distaccare anche lei con forza e gli illuminati l'hanno sacrificata in un rito, a quanto pare. E questa sarebbe la vera causa della morte di Whitney Houston, che però ce la danno morta. Lei ce la danno morta. Tutti quelli che abbiamo detto è l'unica morta. Per ora è l'unica morta. Poi abbiamo Lady Gaga, che è il non plus ultra degli illuminati, è la regina degli illuminati, è la star della musica più potente, e quello forse lo è anche. Posso dire una cosa? Perché anche lì, ora, Lady Gaga sta perdendo, secondo me... ha attaccato un po' gli illuminati. Cioè, un paio di mesi fa. Si è un po' ravveduta, perché l'ultimo disco in realtà è stato un flop, capito? Secondo me c'è stato un qualche screzio. Non lo so, non lo so, non lo so, la butto lì. Ma potrebbe essere. Per ora viene indicata come... Non è aggiornata. Questo disco ultimo è un mezzo flop, per non dire un flop completo, capito? Si trova già a €2,99 nei negozi di... Vabbè, allora... Vuol dire che gli illuminati gli è andato addosso. Ha spinto la luce. E allora vuol dire che Lady Gaga sta perdendo. E chi è di queste star così? No, quella che lecca il martello, la giovane, Anna Montana della Disney, tutta la massoneria di simbologia. Sì, perché noi allo Sky Stone siamo oltre il mondo, pensa ancora a Lady Gaga, ma noi siamo oltre. È così. Che ci facciamo? Ci vediamo Lady Gaga? Giusto, vai, un pezzettino, vai. Bad Romance. Era meglio Anna Montana con Martello. Vabbè, siamo veramente... Ma anche questo. Siamo proiettati nel futuro. Il nuovo cavallo vincente. Hai ragione. Tanta ragione, io. Pesa 410 kg, manca il refrigeratore. Poliziotto canadese. Alejandro, la dice? Sì. Questo è un tipico gesto degli illuminati, l'occhio che si... Cioè, lo dicono tutti, cioè, veramente, tutti. Sei contento, eh? Vabbè, spegniamo Lady Gaga, ce la teniamo magari in sottofondo così. Ma anche no. Ma anche no. Però possiamo parlare a questo punto di un'altra persona che ha avuto a che fare con gli Illuminati, ed è il nostro amico Michael Jackson. Ah, il re, sì. The King. E Michael Jackson era illuminato, faceva parte degli Illuminati. Abbiamo una foto di lui da piccolino. Eccolo qua. Questo è il tipico gesto dell'illuminato, quando fa vedere così l'occhio. Questa foto qua ci dice una cosa. Ci dice che il padre, che come sappiamo ha avuto un bruttissimo rapporto con i figli, che li ha, diciamo, costretti a lavorare fin da piccoli, la... Stanno svelando tutti i segreti. Sì, no, non molesti, sì. Non ricordo mai il nome. Quelli i vecchietti. Sì. I due omini che erano, sì, sul palchetto. Sì, sì. No? Praticamente il papà di Michael Germain, tutte le settimane vi dico io che nasce uno della famiglia Jackson, faccio i compleanni dello Sky Stone, lo so. Cioè, tutte le settimane c'è un Jackson, sono tanti, e avrebbe praticamente costretto i figli a far parte della setta degli Illuminati e li usava già da piccoli per diffondere i messaggi di questa setta, e in questo modo diciamo far passare una serie di messaggi di lavaggio del cervello delle giovani generazioni, come vogliono fare gli Illuminati. Poi si arriva al periodo del successo. Lui continua a essere affiliato agli Illuminati e questo lo paga, perché comunque da giovanissimo arriva a un successo incredibile. È bravissimo, è riconosciuto da tutti come il re del pop e viene idolatrato dalle folle. Può cantare qualsiasi cosa che va bene. Alla fine va bene e i giovani lo seguono. Ma poi arriva il bano. Ma poi arriva il bano con i cigni di balalaica. Scelto l'illuminato sbagliato questa cosa. Con i cigni di balalaica. Ed è la fine di Michael Jackson. È l'anticristo. Al bano l'anticristo. No, però cosa succede? Che a un certo punto però lui sente che tutto questo gli va stretto. Non è più soddisfatto di questo successo, comincia a sentirsi troppo a pressione addosso e decide di allontanarsi dagli Illuminati. Improvvisamente comincia il declino, comincia il declino di Michael Jackson, arrivano le accuse di pedofilia, arriva la droga, arrivano i problemi di soldi, Albano. E Michael Jackson inizia il suo declino. Ma cosa ci sta a monte di questo declino? Questa copertina qua. Oh. Eccoci qua. È il Sgt. Pepper, uguale. È il Sgt. Pepper. C'è il triangolo, c'è l'occhio. Eccolo lì. Allora, questa copertina è piena di simboli esoterici, che non vi sto a spiegare tutti perché sarebbe effettivamente eccessivo. Però qui cominciano a metterlo. Sì! Allora, cosa succede? In questa copertina lui riesce a svelare, agli addetti ai lavori, non a noi, i piani degli Illuminati. Ce lo dice questo occhio. Ci basta che c'è... Come non capirlo del resto? Perché non capirlo? A questo punto da questo album comincia praticamente la discesa della china del successo. Si trova a combattere contro la casa discografica, si trova con tutto il mondo che gli volta le spalle. Fondamentalmente quelli razionali, quelli là seri, che noi no, quelli che dicono le cose per sviarci dalla verità, dicono che alla base di questo declino ci sia il fatto che lui si era aggiudicato il catalogo dei Beatles. un giochetto da 500 milioni di dollari, no? E che la casa discografica lo voleva invece, lo volevano invece loro. E Mottola, il capo della Sony, non è stato molto contento di questa acquisizione. Questo ha fatto sì che la Sony abbia scaricato Michael Jackson. Però questo lo dicono per sviarci dalla verità, ovviamente. La verità è che invece sono gli Illuminati che l'hanno scaricato. E il problema è che siamo nel 91, lui svela i piani della setta e li svela anche con questo video, Black, questo Black or White, sì. No, questo è Black or White, è quello che ora. È questo qua, sì, dove sì. Lui balla e la danza che lui fa in questo video. Purtroppo è una danza rituale esoterica degli Illuminati che lui porta a conoscenza di tutti e quindi non va bene. Invece nell'altro video, quello c'è l'occhio, questo non occorre a questo punto che vi dica niente, c'è l'occhio. Poi abbiamo sempre nei primi anni 90 una dichiarazione di Michael Jackson rilasciata ai giornali in cui dice mi vogliono distruggere e aggiunge è il momento di dire la verità perché loro stanno mentendo. Perché loro qui ci può dire chiunque. Questo è Michael Jackson proprio prima della morte. Jackson. Cioè effettivamente qualche problema lo aveva, secondo me, non so se era proprio con gli Illuminati, però qualche problema oggettivamente lo aveva. E questi problemi lo portano poi a un collasso e lo vediamo qua in ambulanza. Però ovviamente vediamo che è un'altra persona. Si vede chiaramente che è un'altra persona, no? Così come si vede. Vivo anche Michael Jackson sempre. No, esattamente. Esattamente. Lo scoop era questo, allora. Esclusivo. Eccolo qua la foto nella bara. Non si può. C'è un fotomontaggio. No! La foto nella bara, giuro! Ma no, è lui! No, cercate! Michael Jackson nella bara! Fate una ricerca in rete e trovate questa foto. Allora, voi ci scherzate, no? Ma di queste foto qui ce ne sono a migliaia. È ripresa dall'altro. E se volete saperlo, per me è tragicamente vera. Nel senso che questo è il coso. Con il refrigeratore è andato. Secondo di un altro colore. Questa è la foto ufficiale di Michael Jackson nella bara, ma noi sappiamo perché circola questa foto, perché Michael Jackson effettivamente non è morto. Ora a parte questa è la foto ufficiale, sono le foto quelle che circolano ufficialmente, cioè ufficialmente nei forum quelli, ma poi la messa l'occhiamo un po' mentre lo sono bisogna vedere come c'ha l'occhio, perché se c'ha un occhio qui e un occhio qui, li metti gli occhiali e li metti anche storti per farlo vedere, perché ti ricorderei che siamo a questo livello, Perché è un po' troppo lungo. Ma quello sai, lo trucchi. Al limite lo trucchi. Era più morto. Che ora è? No, vabbè. Quanti morti abbiamo ancora? No, ci siamo. Vogliamo anche dire con chi era sposato Michael Jackson? Bravo. È di Paul. Lisa May, chiude il cerchio. Cazzo, questo arrivo io, ti do la mano. E qua chiude il cerchio. E cioè, veramente. Hai ragione. È vero. E tutto torna. Cioè, è incredibile, tutto torna. E il padrino era... Non so, bombe carne, no, magari uno so. Mi sacca, uno di quelli. Mi sacca. Ora, allora, però, noi sappiamo, a questo punto possiamo vedere... O la pelle di Joker. Che è? Michael Jackson è vivo. Questo è il mistero. Allora, Michael Jackson... Ma questo è un programma televisivo, vero? Sì. Larry King Show. Larry King Live. È Larry King Live ed è questo signore è un amico d'infanzia di Michael Jackson a cui il padre aveva gettato addosso del cherosene e aveva dato fuoco e l'aveva sfigurato. Si chiama, vi dico anche il nome, David Rothenberg, ma in questa fotografia qui che vediamo non è David Rothenberg ma è Michael Jackson trasformato in David Rothenberg. Perché ha preso l'identità di David Rothenberg che nel frattempo è purtroppo morto. E quindi potrebbe anche forse starci. Il colore più o meno c'è. Abbondante. Mi dici una cosa, ma c'è una trasmissione che dice questo. C'è tutto. Sì. No, ci sono. No, aspetta, ci sono una cosa come 20 forum. Michael Jackson è vivo e ti portano questa foto qui. Cioè te fai Michael Jackson vivo e ti trovi questa foto. E vabbè. Adesso direi di rilassarci e andare un po' nel sano buon vecchio satanismo. Perché puoi dire anche della telefonata ricevuta oggi, che bellina. Sì, e beh, ci hanno telefonato quando hanno letto l'articolo sul giornale per sapere se avremmo fatto una serata tematica sul satanismo. E il rock, sì, interpellata, io ho detto che ne avremmo parlato, ma non in maniera così approfondita. Sì, allora no. E allora non è venuto il nostro satanista di fiducia. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Ne faremo un'altra puntata, però questa volta con Burzum, perché a questo punto. Sì. Era il reparto degli Illuminati di Lucca. Sì, probabilmente sì. È Alta Valle del Sesto. Alta con 2 A. Alta. Perché adesso faremo sempre questa distinzione. Adesso direi di vederci un video di coso sui messaggi subliminali, perché adesso abbiamo voglia di vederci. Non so se ma c'era anche un video di Michael Jackson. Facciamone a meno, vai. Allora, in rete si trovano queste cose che già ci dicono tutto e ce li fanno sentire all'incontrario. Oh, vai così. E quindi alza. E qui c'è il profumo. Ce l'hanno fatti e io ho vergognosamente sfruttato. Perché ricordiamoci essere Max ce lo fa sentire all'incontrario. Cioè, ci dà la traduzione caso mai non avessimo capito. Eh sì, perché sono le frasi base. Bellissimo. Quella parola. Commovente. Sì, vabbè. That's the one. I'm the one. abbastanza difficile capire. Ah, mi sei scatta l'applauso, è fantastico. Quello, certo. è per il mio dolce. Baracca da attrezzi. È la baracca di attrezzi. Che non è? Sì, non è. È uno che è un altro. Questo è quello che ha telefonato prima. Ha fatto il video. Secondo me sono troppo, sono veramente utili. Io credo che il secondo video sia più o meno uguale, la stessa roba. Qui, messaggio finale, quindi. Vediamo. Però c'è un terzo che è interessante. Il terzo è perché noi possiamo pensare che ci diano i messaggi, scusate. Noi possiamo pensare che i messaggi subliminali siano solo nelle canzoni inglesi, come si diceva qualche tempo fa. Non è così. Io passerei subito al terzo, perché i messaggi subliminali sono anche nelle canzoni italiane. E ne abbiamo trovato un esempio che è veramente inquietante e sconcertante. Guarda! Tatangelo! Gianni Morandi. Aspetta, vediamo se... No, per ora non è stato detto. Albano. No. Battisti. No. Modugno. E vabbè, se facciamo così diciamo tutti. Madonna no. Diciamo un uomo relativamente giovane, personaggio curioso, triste direi. Triste, no, sì, sì. Tenco? No. Recente, proprio recente. Di questi giorni. Sì. Grignani, il più triste di Grignani mi dimentico. No, come Grignani lo vedo più patologico come caso. Meno patologico. È stato detto. Okay. Meno è patologico. Fobia. Brava. Tiziano Ferro. Tiziano Ferro nasconde i messaggi satanici nelle sue canzoni. Ne abbiamo. Si nota dal testo che la nasconde. Ma molto bene. La parte incriminata. Non rivederti più. Se lontana non sei stata mai. Grazie, sono Lui mi tiene libero. Ora io su questo potrei dire tantissimo, non vi dirò niente, però potrei dire tantissimo. Cioè, lui mi tiene, grazie Satana, lui mi tiene. Cioè, questo è Tiziano Ferro, lo sentiamo mai. Anche noi io voglio chiedere una cosa. Già sentirlo addirittura. È già dura. Ma chi è che si mette a sentire tutta questa roba sul paese? Dell'ora, c'è gente che la prende un cazzo la cosa. Cioè, però noi li ringraziamo perché stasera ci hanno fatto veramente comodo. No, davvero, non l'avrei potuto ora fare. Sento questo. Tutto anch'io, vado a casa. È contrario. Tutti i dischi che ho ritirato. Veramente interessante. Vabbè, a questo punto torniamo alle cose serie, perché siccome mi sembra che sennò veramente si divaga e bisogna anche essere serio, parliamo di cose serie, i vampiri. Parliamo di vampiri. Parliamo dei vampiri. Sì, i vampiri sì, sono più vecchi dell'umanità, lo sappiamo tutti. Certo, chi è che non conosce un vampiro nella vita? Dai, su, per favore! I vampiri, e noi in particolare parleremo di un musicista che è citato come vampiro. È immortale, soprattutto. Assolutamente. La sua... Certo, questo ci piace. Questo ci piace tantissimo. L'immortale per eccellenza è... Mettiamo una foto che così ci tira su di morale, che ce ne sono 5.000 di foto. E lui, non possiamo non avere tante foto sue, perché ci piace vedercelo. E no, volevo dire, è perché è proprio... per dire, no? E allora, lui nasce l'8 gennaio del 1947, sotto il segno del Capricorno, per chi gli interessasse, ma questo non so. È veramente diverso. D'altra parte anche Gesù Cristo è nato sotto del il resto. Del Capricorno. L'8 gennaio anche lui, per là. No. Su questo potremmo aprire un dibattito, perché sembra sia nato a luglio sotto il Cancro, ma comunque no, so, vabbè. È nato nel 3 prima di Cristo, tra l'altro. Dice nel 3 prima di Cristo. Nasce via di se stesso. Bisogna a un certo punto anche mettere dei paletti, no? Insomma, vabbè. Allora, si chiama David Robert Jones. È veramente un bell'uomo, ma questo non credo che sia una cosa interessante in questo momento. Perché viene detto che è immortale? Perché non invecchia. Lui, a dircelo, sono le persone che si occupano del suo trucco, in particolare la sua truccatrice, Sara si chiama, se ci interessa, e la sua truccatrice ha rilasciato un'intervista nella quale ha dichiarato che David Bowie, prima dei concerti, prima delle esibizioni, prima delle comparizioni in televisione, si fa truccare per essere invecchiato. E questo è e questo lo fa perché è ovvio, se apparisse sempre fresco, giovane, così Dio lo benedica, effettivamente sarebbe sospetto. Allora, per non essere sospetto, si fa invecchiare attraverso il trucco. Questo ha fatto nascere attorno a lui varie leggende. La più banale è che sia un alieno, perché nelle sue canzoni spesso ha cantato di alieni, ma non è la versione più accreditata. Sappiamo che non è un alieno, sappiamo che è un vampiro. Ma lo sappiamo? Diciamo che allora ci dicono che sia un vampiro, ma noi non ci crediamo. Partiamo da questo presupposto, perché abbiamo fatto delle indagini. Allora, intanto vediamo perché è un vampiro. Lui è, diciamo, molto amico di Andy Warhol, un personaggio particolare. Mettiamo pure una foto di Andy Warhol. Un personaggio molto particolare. Lui era un vampiro. Lui era veramente un vampiro. Ora, ce lo dice Drella. Songs for Drella, Cinderella e Dracula. Era la crasi. Però cos'è che ci dice che era un vampiro? È stato detto che era un vampiro artistico, cioè che lui sfruttava gli artisti e ci si arricchiva, diciamo, se non economicamente. Gli succhiava il sangue, diciamo. Succhiava la linfa vitale. Però che lui era un vampiro a prescindere da questo. E che cosa ce lo racconta? Un episodio in particolare. Nel... ora mi ricordassi l'anno... Sì, quello... c'era la parrucca d'argento, sì, sì. Allora, lui praticamente è stato... negli anni... 68, scusate. Nel 68 ha subito un attentato. E una ragazza, Valerie Solanas, ha sparato 5 colpi contro, tra l'altro torna al 5 come Tupac, ma questo non c'entra niente, contro non c'entra niente, però non lo diciamo, però e lo sottolineiamo, e non avevo giubbetta antiproiettile e ha sparato questi 5 colpi contro Andy Warhol, che è stato attinto da questi colpi ed è stato portato in ospedale, dove è stato curato. No, mia, comunque vabbè, è stato è lo stesso, però nella lavagna c'era anche uno che c'era anche no, sulla Austin Martin, il numero della stanza sicuramente era la stessa, però cosa è successo? Che lui è guarito in pochissimi giorni. E questo ci fa pensare. Ma non è la sola cosa singolare. Questa Valerie Solanas ha dichiarato, dopo questo tentato omicidio, di voler liberare il mondo dal male. Lei ha sparato a Andy Warhol per pulire il mondo, per liberarlo dal male, come se Andy Warhol fosse veramente la raffigurazione del male. Ora sì, magari proprio il bene non sarà stato, però neanche così il male. Perché questa Valerie Solanas aveva questa cosa? Perché era un ammazza vampiri. Baffi. E a chi non viene in mente Baffi? Ha sbagliato arma. Cioè, paletto, ma è un, cioè, purtroppo non tutti gli ammazza vampiri nascono imparati. Questa il problema. Ha sbagliato e ha pagato caro questo, perché è dovuta scomparire. Si dice che sia morta e che si sia suicidata dopo un ricovero in manicomio, chissà come mai. Ma noi non sappiamo se sia veramente andata così, perché di fatto non c'è stato un funerale, non è stata seppellita da qualche parte, e del resto era nulla tenente e potrebbero aver fatto un funerale di quelli popolari, ma non è dato di saperlo. Invece si sa che dopo la sua scomparsa sono stati trovati morti sia Nico che Basquiat, due personaggi molto, molto importanti della Factory, che lei aveva indicato come personaggi da levare dal mondo per pulirlo. Questo ci fa pensare che effettivamente Andy Warhol potrebbe essere stato un vampiro e lei un ammazza vampiri, ma forse la connessione con Bowie in questo momento forse ci sfugge, ma Bowie ci viene in soccorso. Bowie più volte si riferisce a Andy Warhol indicandolo come padre. Questo nel gergo dei vampiri, che chi non conosce, bene, chi non conosce, voglio dire, significa che è stato Andy Warhol a vampirizzare David Bowie. L'ha morsicato e ha creato questo nuovo vampiro. Tra l'altro, altra particolarità che si trova facilmente è che in Romania, il paese d'origine di Andy Warhol, c'è fuori dal cimitero, dove venivano sepolti peraltro i vampiri, una tomba con su scritto Andreas Warhola, che è il vero nome di Andy Warhol. E questo fa pensare che potesse essere la tomba del... Chiaro. Sì. È evidente che è la tomba di Andy Warhol, ma dai, non lo posso dire. Romania, mi pare. Sì, Transilvano. Vabbè, ora non so se Lupoluli. Lui si riferisce a Bowie si riferisce a Andy Warhol come a il padre, non solo, ma molte volte lo cita come sua fonte ispirativa. Non solo, addirittura gli dedica una canzone a Andy Warhol. Ancora di più, nel 96 Julian Schnabel gli fa interpretare, ci abbiamo la foto qua, Andy Warhol nel film Basquiat. Quindi le connessioni sono evidenti. Sono evidenti, i due sono effettivamente legati da un rapporto di sangue. È il caso di dirlo, di sangue. Cioè, fa vedere Valerie Solanas. Ecco, Valerie Solanas, eccola qua. L'ammazza vampiri. È lei, cioè, poverina. Mamma mia, ragazzi. Non è Buffy. È incazzata. La sorella di Bowie. Non è, cioè, poverina, io... Dietro c'è il poliziotto, però, eh? Eh sì, dietro c'è il poliziotto. E tra l'altro il ricovero in manicomio... È un po' il ricovero in manicomio ci fa un po' pensare. L'occhio ce l'aveva un po' da mai. L'occhio un po'... Io direi che è andata così. Lei è uscita... Ha fatto l'autostop, l'ha montata il poliziotto canadese su una Austin Martin e lì è andata. E lì è andata tutta la storia. È lì. E che vederli tutti insieme poi con le carte. Comunque l'occhio proprio di una, ma insomma vabbè, povera Valeria. Anche Bowie con l'occhio un po' ci ha giocato con l'occhio, con l'occhio lo stesso occhio, quello di Michael Jackson, quello che si vede. Ma la cosa lì dell'occhio è stato detto che sia una sua caratteristica, insomma, che in realtà è stato un pugno che ha ricevuto da Bimbetto. Sì. Ma non è vero. Ma non è vero, no! Se hai in Los Angeles lo guarda nessuno. Che è successo? Sì. Presente la ragazza israeliana che fa la gente speciale, ma Los Angeles o Los Angeles? C'è New York. Ah, sì, sì, sì. Con una macchia scura. Sì, con una macchia scura. Non lo sa mettere uguale a questa. È vero. Non c'entra niente. Non c'entra niente, però. È vero. Qualcuno. Se c'è una soglia, te la cercherei. Come fa di canzoni? Guarda, anche a me mi ha fatto venire in mente quello. Ora, però, noi. Diciamo, la storia del vampiro non tiene. È un alieno. Chiede più l'alieno. No, l'alieno no. Allora ci siamo messi a cercare, a fare un po' di ricerche. Veramente a noi ci sarebbe venuta fuori un'altra cosa. Perché la vita di David Bowie è pubblica. Cioè non c'è niente di nascosto, non c'è niente di segreto. Quello che abbiamo trovato, il filo che abbiamo trovato noi, ci porterebbe verso l'alchimia. E che lui sia sì immortale, ma perché alchimista. Addirittura sarebbe la terza reincarnazione di Ermete Trismegisto. Di Ermete Trismegisto. È meraviglioso. E scusa, non perché ho studiato. il 3 ricorre sempre nella sua opera. Il 3 ricorre sempre. Quindi abbiamo questo 3 ricorrente che indica la terza reincarnazione, ma indica anche i tre aspetti che lui ha avuto. Il 3 è il numero perfetto, no? Ma non solo. Questo farebbe sì che lui faccia una ricerca e di lì tutti i mutamenti che lui ha avuto nell'arco della sua carriera, perché è stato un trasformista incredibile. Si è trasferito a Losanna, in Svizzera, un posto che è veramente incredibile. C'ha l'acqua, ma c'ha le montagne, c'ha il verde, ma c'ha lo specchio dell'acqua dove ti rifletti e dove vedi te stesso e quello che sarai. Cioè, effettivamente, Losanna è un posto. Però ha mantenuto anche un posto, un appartamento a New York, come nei tagli torto. Cioè, va bene, la capretta, ma... Lui viene chiamato Duca Bianco. Il bianco è il colore del plurale assoluto. Il plurale assoluto è chiaramente il colore, quello che smembra tutti gli altri colori. Non è primario e non è duale. Quindi diciamo che ha tutti gli altri colori nella stessa percentuale e può essere associato alla purezza. Questa è la definizione da dizionario alchemico. E lui è stato chiamato il Duca Bianco. È un caso? Certo non può essere un caso essendo inglese, perché è chiaro che è di razza caucasica. È difficile che non sia di razza caucasica. Cioè... E quindi, perché bianco? Poi, vabbè, abbiamo appunto tutti questi mutamenti. Una sessualità così, diciamo, androgena, come nell'alchimia. Noi abbiamo un po' seguito questo, ma è un lavoro ancora da fare. È in divenire. Però, secondo noi, la strada intrapresa, cioè, non ci soddisfa l'idea del vampiro. Non basta. È qualcosa di... Ah, un angelo, voglio dire. No, vado a far girare la dischia di incontrare. Potrebbe essere magari ce lo dice, però secondo noi potrebbe essere canta change, canta Life on Mars. Mars, il pianeta rosso, rosso il colore della rubedo alchemica, quindi il massimo della sublimazione. Poi che c'è ancora? Gli specchi. L'ultima copertina di David Bowie è lui che si specchia in tre pose diverse, da giovane, da maturo e da anziano. E da anziano, anziano, truccato, bravo, vedo che hai capito. Sei stato attento, giustamente. Secondo noi potrebbe essere che invece tutti ce l'hanno spacciato come vampiro, come alieno, ma potrebbe semplicemente essere la reincarnazione. Essere la reincarnazione di Ermete Trimegisto. E su questo noi ci vediamo David Bowie, che è sempre un bel vedere. I capelli sono rossi. Farei notare i capelli rossi, farei notare. Il fuoco, gli occhi azzurri in cielo, aria. But her friend is nowhere to be seen. Un pianoforte che non c'è, se non almeno un alchimista. Poi i colori ci sono tutti. sulla domanda: sarà un alchimista, sarà un vampiro, sarà un alieno? Ma l'ammazza vampiri! Però così ci piace. Lo metti anche quell'altro video, tanto ci fa compagnia mentre ci si saluta. How you doing, huh? Excellent. How about you, my baby? How are you doing, huh? Big smile. Smile for daddy. Is that like the grossest thing that people say? Oh, come to your daddy, baby. What is this daddy shit? Sorry, I've been watching. I've been watching too much television. Forget about it. Come si fa a dire che non è mortale? Okay, so what's going to happen? You're still okay for time, right? Well, this was my idea. So we're going to do another couple of songs, right? Then we'll take a very, very short break, and then we'll come back and do the Low album for you. If you want. You okay up there with that? Low? Thank God you know it. We've been at least five. And then we'll do some more songs after that, you know. So this could, I'm not joking, this could be really long. So if you like, if you didn't make any arrangements for getting home, I've got a fairly big motor outside, so I can get some of you back, yeah? You know. Like two or three. C'ha dei poteri. Ah, sai. Ma per okay, non lo so. No, Uno che scrive una canzone come questa può non avere poteri. Deve avere dei poteri. You can be me. And I'll drink all the time. 'Cause your love runs. That is a fact. Yes, my lover. That is a fact. Oh, nothing will keep us together. We can be there. What you say, I say. alchimista della musica. Magari non sarà un alchimista diverso, ma quello lo è. E tre volte grande c'è sicuro. Con questo si chiude il nostro incontro. Vi auguriamo tutti noi buon Natale e vi diamo appuntamento al 16 di gennaio con Filux. Bravo Federico. Sì, però non è vero. Ma io ho 4 ore.